America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Und Sie kennen ja auch, dass Fuchtelos in Griechenland genannt wird. Und ich hoffe, Sie sind auch noch nicht neidisch geworden. Wird sich für Ihre Region auch weiter einsetzen. Beh, avete sentito Angela Merkel quando si infuriò con Barack Obama e con gli Stati Uniti d'America per le attività di spionaggio, di intercettazione, dicevano gli Stati Uniti, anche di sue telefonate, con la scusa di perseguire, diciamo così, i terroristi, il pericolo del terrorismo. Ricorderete le polemiche di allora, la NSA, la National Security Agency, ricorderete l'FBI. Ebbene, che è successo l'altro giorno? Che tre articoli specifici che autorizzavano le autorità di controspionaggio americane a fare queste intercettazioni sono scaduti. Sono scaduti in realtà per pochissimo, perché il Senato è già al lavoro. Vi racconterò poi la storia e retroscena di questa scadenza, ma la speranza di Barack Obama è che il Senato riesca a mettersi d'accordo e passare una nuova legge che dia più garanzie di trasparenza, ma che di fatto mantenga invariate le autorità di intercettazione da parte di FBI e di National Security Agency. Perché vi ho fatto ascoltare la Merkel e perché Obama vuole che questo progetto di legge sia approvato al più presto? Perché sabato ci sarà in Germania, a Schloss Elmau, a Krun in Baviera, un bilaterale fra il presidente americano e il cancelliere tedesco, subito prima il G7, che si aprirà domenica e continuerà poi lunedì 8. In questo G7 si parlerà naturalmente di economia, si parlerà della sfida della crescita, ma si parlerà molto anche di ISIS e di terrorismo. I think it's going to be important for us to make sure that we recognize these kinds of... Beh, il presidente americano è preso un po' fra l'incudine e il martello, cioè i suoi compagni di partito democratici vogliono che il presidente rinunci a quelle prerogative dell'FBI e della NSA, della National Security Agency, perché dicono vanno a violare i diritti dei cittadini. Queste intrusioni avvengono senza che vi sia il permesso o l'autorizzazione da parte di tribunali speciali che dovrebbero consentire all'FBI o la NSA di procedere con queste intercettazioni. Eppure Barack Obama è schierato dalla parte degli agenti. Perché? Beh, perché si rende benissimo conto che il pericolo è un pericolo molto reale, quello rappresentato dai terroristi in genere, ma dall'ISIS in particolare, che è già arrivato, come ricorderete, vicino a Dallas negli Stati Uniti, dove c'è stato il tentativo di un attentato a una mostra su caricaturisti di Maometto, diciamo per tutelare il diritto alla libertà di stampa di Charlie Hebdo, e questo attentato fallì, i due attentatori furono uccisi, ma ci si resi conto che se non ci fosse stato un poliziotto eroico pronto a sparare alla texana, beh, e lì poteva esserci una strage. Dunque la psicologia che a un certo punto aveva pervaso l'opinione pubblica internazionale contro queste intercettazioni è leggermente cambiata. If you do that in secret consistently, you know, as the government does when it wants to benefit from a secret action that it took. Ecco, qui sentite Edward Snowden, che lavorava di fatto indirettamente, ma lavorava per l'intelligence americano e accumulò una gran quantità di materiale rivelando queste attività di spionaggio del governo americano sui propri cittadini. Il governo americano non ha paura di me, diceva Snowden a suo tempo, ha paura di cittadini informati. Beh, in realtà ora che i cittadini oltre ad essere informati vedono quello che succede con l'ISIS, come vi dicevo, le cose sono leggermente cambiate. Dunque Obama doveva tener conto delle lamentele della Merkel, doveva tener conto di un'opinione pubblica americana che era preoccupata da queste intrusioni nelle conversazioni di milioni e milioni di americani. Però Obama voleva che le cose cambiassero e voleva arrivare a questo G7, all'incontro con la Germania, con una risposta molto concreta. Dove l'ha trovata? Beh, in un accordo con la Camera, attenzione, la Camera controllata dai repubblicani, dunque c'è stato un lavoro bipartisan tra la Casa Bianca democratica e i repubblicani e naturalmente anche i democratici alla Camera, che hanno cambiato alcuni aspetti della legge. E cioè, innanzitutto FBI e NSA non potranno avere accesso diretto alle conversazioni telefoniche. Le conversazioni telefoniche resteranno in mano delle compagnie telefoniche e le compagnie telefoniche potranno rendere disponibili solo le telefonate autorizzate dal Tribunale dell'Intelligence, un tribunale cioè che valuterà se le richieste dell'FBI o dell'NSA meritano davvero attenzione. Quindi, diciamo, la possibilità di avere accesso a un numero illimitato di conversazioni in teoria rimane, ma si introduce un elemento di garanzia, di tutela del pubblico che prima non c'era. Ecco, questo è un passaggio fondamentale che Barack Obama sperava potesse essere concluso in tempi brevi. Se non che si è inserito un colpo di scena. We are here this evening because this is an important debate. This is a debate over the Bill of Rights. Rand Paul, candidato repubblicano alle presidenziali del 2016, un personaggio molto particolare, atipico nel Partito Repubblicano, è un libertario. Un libertario che si oppone alle intrusioni del governo americano nelle conversazioni dei cittadini. E dunque qual era la situazione? Si sapeva che al Senato le cose andavano a rilento. Nel frattempo, domenica sera alla mezzanotte, sarebbero scaduti quei 3 articoli del Patriot Act che consentivano all'FBI e all'NCA di muoversi sul fronte del terrorismo con le intercettazioni come meglio credevano. Si poneva un problema, c'era il rischio di avere un vuoto in cui le agenzie di controspionaggio non avrebbero potuto operare. L'idea condivisa da tutti era quella di prolungare di qualche giorno questi 3 articoli in modo da aspettare poi la nuova legge che sarà approvata probabilmente domani o dopodomani al più tardi, ma proprio questione di giorni. Ecco, è lì che si è inserito a gamba tesa Rand Paul e devo dire è stato geniale perché ha conquistato tutte le prime pagine dei giornali del giorno dopo e facevano vedere questo senatore che alla mezzanotte difendeva dal suo punto di vista naturalmente i diritti degli americani facendo questo lungo discorso che lo ha portato poi a invocare alcune norme procedurali e a obiettare che i 3 articoli fossero prolungati e ha vinto lui. Forse è l'unica vittoria che avrà da un punto di vista nazionale perché il senatore John McCain, irritatissimo per questa sua azione, lo ha attaccato e ha detto che in realtà, secondo lui, è il peggior candidato presidenziale del Partito Repubblicano. Dunque, per tornare all'apertura di questa mia puntata e al G7, sono quasi sicuro che Barack Obama incasserà questo nuovo progetto di legge, farà contenta la Merkel, il loro bilaterale di sabato andrà molto bene anche perché l'economia europea piano piano si sta riprendendo e tutto sommato anche i cittadini americani che hanno davvero più paura di un attacco dell'ISIS che non della tutela della loro privacy saranno contenti di avere una nuova legge contro il terrorismo. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su Maria24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, parlando di National Security Agency, FBI, Spy Stories, direi che la canzone più appropriata è Adele, Skyfall, dal film di 007 con Daniel Craig. This is the end. Hold your breath and count to 10. Feel the earth move and then hear my heart burst again. For this is the end. I've drowned and dreamt this moment. Platero vi saluta e vi dà appuntamento domani. Goodbye and get going.